as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, salve a tutti, siamo di nuovo qui ad Il Pane e le Rose. Oggi, innanzitutto chiedo scuse perché sono mancato, ma anche io mi sono influenzato. Dicono che siano stati troppi scioperi che abbiamo fatto all'aperto, troppi picchetti, presidi, non lo so, comunque mi sono influenzato e sono stato abbastanza male, ma Lucia, ho dovuto saltare le puntate, per questo non mi avete sentito. Ora, purtroppo questa puntata la dovevo mandare 2 settimane fa e non sono riuscito a mandarla, la manderò solamente oggi. E è una puntata speciale. Il Pane e Rose, normalmente parliamo di lavoratori, parliamo di questioni dei lavoratori. Questa puntata affrontiamo un argomento diverso. Ogni tanto capita. Affrontiamo la questione di chi lavora nel mondo del volontariato. L'abbiamo già affrontato in passato, abbiamo avuto l'occasione di intervistare Franco Borelli, che è un mio amico, un mio compagno, abbiamo militato tanti anni sia politicamente nei partiti comunisti che sindacalmente, ci conosciamo veramente da una vita, e sono stato chiamato da lui per far conoscere quello che lui gli è successo. Franco ormai è in pensione e, come tanti pensionati metalmeccanici comunisti, fanno del volontariato, perché sai, noi metalmeccanici non sappiamo stare senza fare nulla. E lui si occupa di calcio, è il presidente di una società sportiva di Ozzano, calcistica, gli è capitato un fatto, ed è un po' che lui si occupa di calcio, anche quando lavorava sinceramente, però adesso che è in pensione si occupa a tempo pieno e aveva tanti progetti, tante cose. Io ho partecipato a alcune sue iniziative, sono stato con lui, quando poi, anche se abito un po' lontano, Lozano un po' lontano, però sono stato, ho visto le cose che stava creando insieme ai suoi cugini, e purtroppo gli è capitata una sfiga incredibile. Ha preso una denuncia anche sul penale, e ha dovuto abbattere la casetta di legno che aveva costruito nel campo da calcio che lui ha in gestione. Ha organizzato una conferenza stampa, siamo andati, l'abbiamo intervistato prima che arrivassero le persone, in realtà stavano arrivando mentre io lo intervistavo, e mi ha raccontato la sua versione dei fatti. Ora, nell'intervista chiaramente c'è solo la sua versione, poi io nelle conclusioni dirò anche, perché la conferenza stampa è stata davvero davvero animata, perché poi sono intervenuti anche quelli che si sono sentiti accusati, perché alla fine capirete la questione dall'intervista come si è sviluppata, dirò anche la mia, anche perché io ho avuto la possibilità di parlare con quelli che sono stati attaccati da Franco, quelli che secondo Franco hanno messo in questa situazione bruttissima Franco e i suoi ragazzi, e niente, ascoltatevi l'intervista, poi sentite le mie conclusioni, in cui dirò anche quello che hanno detto chiaramente la controparte, per onestà intellettuale. E adesso ci sentiamo un pezzo di un altro cantautore che purtroppo ci ha lasciato in questi giorni, stiamo parlando di Gianfranco Manfredi, è un cantautore degli anni 70, famosissimo, no? Quarto Giaro Story, le sue canzoni. Voglio ricordare a tutti che aveva 76 anni, era un compagno, veniva spesso a Bologna, soprattutto al VAG, è stata, insomma, le sue canzoni hanno tracciato un'epoca, ha fatto anche la storia della musica, diciamo, rivoluzionaria e militante di quegli anni, ecco. Ascolteremo oggi un paio di canzoni e ci sentiamo dopo per le conclusioni. E attraverso i muri, attraverso le porte, passano i fantasmi delle persone morte. Passa il desiderio di zombie proletari che solo nel silenzio sanno illudersi uguali. Passa il sogno perduto di ricomposizione. Ma come ricomporre un bacio, un'emozione? Passa un sogno suicida che dice che ha sparato a un cuore che non c'è, al cuore dello Stato. Passa un sogno che canta l'ultima ideologia. Io voglio la sua testa, la testa di Maria, Maria che non esiste, che è solo una canzone, Maria che non è bella neanche come nome. E attraverso il rifiuto, attraverso i rifiuti, abbiamo trovato asilo su mondi separati. E per comunicarci il menù di domani possiamo solamente far segni con le mani e fare le boccacce di un linguaggio inventato che non emette suoni, emette solo fiato, con un po' di paura che un intellettuale capisca anche il silenzio e lo voglia svelare e ci tolga la voglia di non capire niente, vivendo come corpo anche la nostra mente, sapendo che comprendere vuol dire abbracciare, ma se l'abbraccio è morsa vuol dire strangolare, sapendo che la morte non è così lontana. Siamo noi che l'amiamo, no, non è lei che ci chiama, perché siamo i fantasmi del fantasma d'Europa, che di carne e di sangue ne ha conservata poca e dice con sospiro, come un basso profondo, unitevi di nuovo, zombie di tutto il mondo. Da tutte le paludi, da tutte le galere, lasciando le famiglie, lasciando le bandiere, che vogliono bendare questi corpi straziati, noi non nascondiamo questi corpi spezzati. Ci si vede attraverso, ci si vede lontano, trasparenza assoluta che si tocca con mano, trasparenza che dice che oltre questa storia ce n'è una più bella, che non è la memoria e non è nostalgia, che ritratti conserva di noi quando da piccoli avevamo la barba, è la storia segreta, la storia parallela, là dove il nostro inverno diventa primavera. Allora, caro Franco, siamo qui, oggi c'è questa riunione che tu hai convocato, io e te ci conosciamo da tanto tempo, siamo stato un mio compagno, amico, delegato FIOM, il buon figlio dei riduttori, e sono qui oggi, sul lavoro c'entra poco, ma in realtà c'entra, Perché tu da quando sei, anche prima che andassi in pensione, ma nel momento in cui sei andato in pensione, ti sei dedicato sempre di più alla società sportiva che tu sei presidente da un sacco di anni, ed è successa questa cosa molto spiacevole qua nel comune di Ozzano che siamo qui per raccontare. Allora, raccontaci un po' questa vicenda. È una vicenda che risale dal 2019, che io e i miei due cugini che... 2020. Vabbè, 2019, che facevamo del calcio a Ozzano, abbiamo chiesto al comune di cambiare una baracca in ferro che era del comune per metterci una bella casetta in legno col porticato, e sperando di fare del settore giovanile per dare una casa a questi ragazzi. Il sindaco ha detto: va bene, scrivetemi due righe all'ufficio tecnico, e noi ingenuamente abbiamo fatto un'email e basta, però non abbiamo mai avuto risposta dal comune. Noi abbiamo costruito, ma dal 2020 arrivare adesso nessuno ci aveva mai detto niente che potevamo fare o non fare. Noi abbiamo costruito. Purtroppo forse la mia scesa in politica con Progresso Ozzano, abbiamo portato avanti un bel programma, abbiamo avuto anche molti voti, ha fatto forse arrabbiare la signora che ci ha denunciato, che non so neanche come si chiama, perché non voglio saperlo, perché il sindaco me l'ha detto che aveva una denuncia penale. Sono venuti giù 3 volte i vigili, mi hanno fatto 2 verbali e la terza volta mi hanno chiamato in caserma per dirmi che mi devo trovare un avvocato, e io l'avvocato me la sono trovato, sto pagando l'avvocato, sto pagando l'architetto per ritornare a fare tutto in regola e per farmi cavare via il penale. Io adesso non potrei, io se vengo condannato non posso più fare né il presidente di calcio né il presidente dei pensionati, non posso più fare niente politicamente o calcisticamente, perché io volevo, quest'anno abbiamo 82 bambini, io ho fatto del sociale, non ho fatto pagare una lira a nessuno di questi bimbi, gli ho dato borsa, tutte iscrizioni, tutto gratis, pur di dare una casa a questa associazione qui, che i bambini non andassero più in giro a Ostia Grande, a San Lazzaro, a Castellaso, e rimarrebbero a Ozzano. Cioè, fammi capire, tu praticamente questi bambini, no, a scuola calcio dei bambini, no, gli hai dato tutto gratis? Sì. Anche l'iscrizione? Tutto, l'iscrizione, tutto gratis. Questi venivano a scuola calcio e non pagavano niente? Li abbiamo vendato tutto, ma stanno venendo anche adesso alla scuola calcio. Però adesso non hanno più la casa. Prima avevano questa casa, questo ritrovo sotto a questo tendone, questo porticato, tutto coperto. E prima c'era una baracca in ferro bruttissima, che era anche pericolosa. Invece io ho messo, e poi non si sa ancora chi ha fatto l'illecito, prima il comune o dopo io? Sono venuto, la tua casetta era bellissima. E non abbiamo capito che ha fatto benissimo. Io sono venuto. Il coso. Però vabbè, però i bambini adesso non hanno più, le mamme dei bambini prima venivano per stare al caldo, vedevano gli allenamenti, le partite, ora non possono più venire perché non c'è più niente. E quindi non è che io finivo di fare il calcio, ma quella lì rimaneva al comune, non è che mi portavo a casa il legno, questa rimaneva tutto al comune. Purtroppo il comune non può più fare, ha dovuto fare il comune perché lei mi ha denunciato sul penale. Ma perché dici che è stato l'impegno politico tuo? Perché è una signora di destra che mi ha votato, che mi ha denunciato. Lì che è rimasto fuori, è stata una signora di destra che mi ha denunciato. Ma tu sai chi è? Sì, ma non... Di destra, dunque ce l'ha con te questa persona? L'ha con me, no? Ce l'ha con me perché c'è poi un giro sotto che hanno tolto il campo di Ozzano Calcio a quello che lo gestiva e me l'hanno lasciato a me, dove lo gestisco io, e forse ha creato molti, molti, molti invidie, perché adesso i bambini sono venuti tutti da me e lui non può più fare niente, anzi. Questo è il problema allora. Forse questo è il problema. E il sindaco non ti ha potuto dare una mano, niente? Il sindaco ha detto che l'ha chiamata, gli ha detto se si poteva togliere la denuncia, lei ha detto di no, ma dal momento che c'è il penale non mi può più dare la mano. Il sindaco ha fatto il sindaco. E questa denuncia cosa, perché c'è il penale? Cos'è questa denuncia? Perché lei per abuso edilizio. E dal momento per una casa di legno che era di abuso edilizio. Sì. Perché costruisce. Cioè, il problema di Ozzano è l'abuso edilizio di una casa di legno. Non è il problema che la gente forse non fa fatica a comprarsi una casa. Forse. Se questo il problema della destra di Ozzano è questo. Il problema è questo. Perché adesso addirittura fanno anche le ronde di sera, vanno a vedere i campi sportivi, cosa non funziona, se c'è due luci accese, se non ci sono forse vengono più ladri, ma insomma sono tutte... Vabbè, comunque andiamo avanti, mi pagherò l'avvocato, mi pago il geometra. Tu sei abituato a pagare avvocati ormai. Ormai sono già abituato a pagare avvocati, ne ho pagati 20.000, adesso andiamo avanti. Questa è una cosa triste perché comunque è la cosa più brutta che ci rimettono i bambini. Se io e mio cugino gli diciamo che smettiamo di fare del calcio, ci rimettono tutti i bambini. Ma già oggi questi bambini non hanno più... Già oggi non hanno più dove stare al caldo, dove poter giocare a Shanghai, poter giocare... Anzi, io volevo fare anche una cosa che non c'è nessuna parte, avevo già preso dei computer, avevo preso due maestre, facevamo il dopo scuola, i bimbi arrivavano, facevano i compiti. Tutto gratis. Tutto gratis. Quello è il problema. Purtroppo oggi quando è gratis viene attaccato. Purtroppo le cose fatte così non vanno bene perché... Di far pagare. Devi far pagare. Io non accetto che devo far pagare. Va bene. Adesso aspettiamo che arriveranno delle persone. Ci sarà questa iniziativa di oggi qua a Ozzano. Sì. Oggi siamo il 13. Però vorrei dire anche chi mi ha denunciato... Non porto loro ancora perché tanto sono abituato per fare queste cose qui, pagare degli avvocati non è un problema per me. Ma certo. Pagare degli avvocati non è un problema. La tristezza è che ci rimettono dei bambini, non ci rimetto io. Queste persone ci dovrebbe fare solamente un esame di coscienza. Sì, ci rimettono solo dei bambini e ci rimettono solo... Comunque io voglio ribadire che io quando sono andato, mi sono iscritto a Progresso Ozzano per essere candidato, non avevo nessuna denuncia. E loro non sapevano niente, quindi non c'entrano niente con me, insomma questa è una cosa a parte. Siccome sì, mi è stato detto anche questa cosa qua, che ho adoperato la lista di Progresso Ozzano per venire, per essere a fare questi giochini qui, invece io non sono l'uomo che fa questi giochini qua. Tu mi conosci da tanto tempo, sai che io sono una persona onesta. Troppo onesta forse per questo mondo. Forse per questo mondo non vado bene. Io. Ecco. Va bene, adesso vediamo stasera cosa si dirà. Ok, grazie Franco. Ciao, grazie anche a te. Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra. Sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, la rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta, sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione. Nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria, sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, nel prendersi la mano, nel tirare i San Pietrini, nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre. pietre sui gipponi stanno i sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale del discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel fondo dei tuoi occhi. Ma chi ha detto che non c'è? Sulla punta delle labbra. Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel mitra lucidato. Ma chi ha detto che non c'è? Nella fine dello stato. Ma chi ha detto che non c'è? Non c'è. Allora, abbiamo ascoltato una canzone stupenda di Gianfranco Manfredi, a me mi è sempre piaciuta questa canzone, favolosa. E avete sentito Franco Borelli che ha spiegato insomma quello che gli è successo. Io dico subito una cosa, i lavoratori che fanno volontariato sono una spina portante, soprattutto che la fanno come Franco. Avete sentito? Cioè avere una scuola calcio gratuita, completamente gratuita, pensare di fare anche del dopo scuola completamente gratuito, con computer a disposizione, con docenti a disposizione che aiutano questi ragazzi, oggi non lo fa più nessuno. È un problema questo, certo, dà fastidio alla destra. Poi loro, adesso spiegherò come hanno risposto, ma questa qui è una cosa che dà fastidio. C'è tantissima gente che vive e campa facendo soldi, facendo scuole calcio, dopo scuola per bambini, ci campano famiglie e famiglie intere. C'è invece chi questi servizi cerca di darli gratuitamente. E che gli succede? Per errori commessi, chiaramente, da Franco, perché effettivamente lui non aveva tutte le carte in regola per costruire quella casa. Sono stati molto superficiali, chiaramente, in quello che è successo. Anche perché fondamentalmente, io adesso vi spiego, la reazione in quella conferenza stampa, è intervenuto un consigliere, credo, uno che faceva parte della lista di destra, che è stata attaccata da Franco, dicendo che loro fondamentalmente non hanno denunciato Franco, ma hanno chiesto chiusi i bandi, hanno chiesto al sindaco di vedere se tutto era a posto, se tutte le concessioni che erano state date, tutte le persone che avevano in gestione, tutti i campi sportivi in generale, tutti erano tutti in regola. Facendo questi controlli, loro possono farli come consiglieri, è venuto fuori che Franco non era in regola. E lì c'erano due possibilità: o il sindaco sanava, oppure partiva d'ufficio una denuncia. Bisognava demolire. Quello che è successo, infatti, a me dispiace anche che il sindaco non abbia visto l'importanza di quello che stava facendo Franco, la gratuità, il numero di bambini elevato, 82 bambini per Ozzano non sono pochi, non ha sanato questa casa, che era comunque una casa fatta veramente bene, era molto carina, molto accogliente, casa di legno, di quelle moderne, anche ecologiche, anche green, possiamo dire così, e non è stato fatto non è stato sanato. È stato messo in difficoltà Franco, che adesso dovrà subire un processo, e ha dovuto distruggere questa casa e dovrà ricostruirla, perché tutte le spese che verranno dopo, spese legali, spese di costruzione, perché Franco non molla, il progetto va avanti. Ora, quello che io dico è possibile che delle persone che danno il tempo della loro vita al volontariato, al lavoro di volontariato, che comunque ricordiamo è il lavoro, debbano trovarsi in queste situazioni, soprattutto quando non ci guadagnano nulla, quando le loro intenzioni sono veramente oltre che il volontariato, oltre che il servizio, cioè veramente qualcosa di importante, si devono trovare in queste situazioni per errori commessi da ignoranza fondamentalmente. Io penso che questo sia inaccettabile e spero che la società cambi e anche la politica non metta in queste situazioni persone che veramente non se lo meritano, come il caso di Franco. Speriamo che veramente le situazioni migliorino. Spero che i comuni si organizzino e abbiano degli sportelli, ad esempio, dove uno può, quando deve fare qualche progetto e si occupa di volontariato e è in gestione beni comunali, può andare in questo sportello e avere tutte le informazioni corrette e precise, e solo nel momento in cui le cose vengono fatte bene gli si permette di fare certe cose. E non che uno dice mandami un'email e poi gli fai costruire lo stesso. Cioè, ci siamo stati degli errori anche da parte del comune in questo caso, non è che non si è accorto il sindaco che stavano costruendo questa casetta. E bisognerebbe creare delle situazioni di non mettere in difficoltà le persone, perché adesso Franco ha la possibilità di pagarsi anche un avvocato, ma se non avesse possibilità sarebbe veramente in difficoltà. Adesso io vi lascio con questa storia e speriamo di fare anche altre interviste parlando di persone che si occupano di volontariato o terzo settore. Ho intenzione di fare qualche altra puntata, visto che mi dicono sempre che parlo solo di meccanici, questo non è vero. E ora io vi lascio, vorrei ricordare un compagno che è morto, Stephen Bukin. Abbiamo fatto due puntate con lui durante il Covid. Era un professore universitario di Parigi, il quale era venuto a Bologna a intervistarci, ai lavoratori che avevano scioperato durante il Covid, da qui ha scritto un libro, che io non ho purtroppo, è scritto in francese, in cui abbiamo fatto delle interviste, lui mi ha intervistato e io ho intervistato lui, delle puntate, andate sulle pagine podcast, lo troverete. Purtroppo è morto, è caduto dalle scale, improvvisamente. Noi gli auguriamo che la terra gli sia più lieve possibile, perché è stato un grande compagno, una grande persona, e ci dispiace che non sia più tra di noi a lottare. Ma comunque non ti dimenticheremo mai, Stefano. Salve a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.